America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The U.S. and 11 other Pacific Rim countries have reached what is being called a landmark trade deal. It is known as the Trans-Pacific Partnership, or TPP. Accordo TPP, Trans-Pacific Partnership, ecco. È un accordo commerciale, dunque la premessa per voi potrebbe essere oh my god, è una cosa noiosa. Vi dico subito, non lo è. È una cosa molto importante, su cui è molto importante essere informati per varie ragioni. Perché intanto c'è una valenza storica di questo accordo. Qui si sta costruendo, si sta creando la globalizzazione. Che cosa è successo? Che gli Stati Uniti, insieme ad 11 paesi della regione del Pacifico, con l'eccezione della Cina, per ragioni che poi vedremo, hanno sottoscritto questo accordo che di fatto introduce il libero commercio nell'area del Pacifico. Stiamo parlando del 40% dell'interscambio mondiale, del 40% dell'interscambio commerciale mondiale. Stiamo parlando dell'abolizione di 18.000 tariffe, circa 18.000 tariffe che in questo momento creano problemi, ora questo problema oltre all'altro. Quali sono i paesi che partecipano? Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam, oltre naturalmente agli Stati Uniti. Si cercano di inserire in questi accordi, come dire, dei vincoli che per esempio impediscono a un certo paese di approfittare dei brevetti dell'altro paese e quindi del furto di proprietà intellettuale. Si cerca di portare avanti in sostanza che cosa? Un'armonizzazione delle regole, degli accordi, di quelle che sono le aperture commerciali reciproche. Si apre per esempio il mercato agricolo di Canada e Giappone. Il Canada resisteva, non ne voleva sapere, poi alla fine ha fatto un passo indietro. Vi sarà una protezione dei prodotti farmaceutici, si aprono le frontiere di internet, si crea un'alleanza che, come dire, darà una spinta alla Cina. La Cina non è entrata non perché non volesse entrare o perché gli Stati Uniti la volevano tenere fuori, tutti avrebbero voluto averli dentro. Il problema è che la Cina non è ancora matura, non è ancora pronta per entrare perché non ha i requisiti necessari, per esempio dal punto di vista del mercato del lavoro, protezione, salario, lavoro minorile e così via, così via. Dunque c'è una spinta perché anche la Cina faccia un passo in avanti. So the Trans-Pacific Partnership that we're working on, it's the biggest trade deal that we're working on right now, has to do with the Asia-Pacific region, and it reflects our values in ways that frankly some previous trade agreements did not. It's the highest standard, most progressive trade deal in history. Barack Obama è felice naturalmente perché ha mantenuto una delle sue grandi promesse elettorali e perché questo accordo, che vi ripeto è storico perché ha la dimensione dell'accordo che ci fu molti anni fa per creare il mercato unico nordamericano, cioè un mercato unico fra Messico, Stati Uniti e Canada, il cosiddetto NAFTA. Ma vediamo quali sono le considerazioni politiche su questo accordo, politiche ed economiche, perché dal mio punto di vista, fatto un accordo, cioè fatto il TPP, il Trans-Pacific Partnership, facciamone un altro, cioè facciamo il TTIP. Io sono sicuro che molti a questo punto avranno da ridire, perché ovviamente aprire i commerci, togliere le barriere commerciali, significa anche rendere più vulnerabili certi posti di lavoro. Però cerchiamo di riflettere, perché dopo la svolta storica di ieri nel bacino del Pacifico, inevitabilmente i tempi improvvisamente accelerano per liberalizzare anche il bacino dell'Atlantico. Questo è uno sviluppo indispensabile, vi dicevo, sia per ragioni politiche che economiche. Cominciamo dall'economia. In questi giorni si apre il Fondo Monetario, le riunioni annuali del Fondo Monetario della Banca Mondiale a Lima, in Perù. C'è una congiuntura che presenta delle preoccupazioni, necessità di rafforzare la crescita, la Cina in difficoltà, l'America, lo abbiamo visto la settimana scorsa, fragilità sul fronte occupazione, mercati ansiosi. Ecco, Questo accordo sul bacino asiatico diventa un nuovo propulsore per il rilancio dell'economia globale, perché la verità è che i commerci aumenteranno, aumenterà il giro d'affari e dunque anche se alcuni settori, alcune aziende, alcuni lavoratori soffriranno, l'occupazione e l'economia nel suo insieme migliorerà. Vediamo la parte politica. Ci sono almeno tre considerazioni chiave. La prima è quella, secondo me, per noi europei di non restare indietro rispetto all'Asia, di non contribuire con ostruzionismi inutili. E qua mi viene in mente una cosa che ci riguarda direttamente, cioè alcune richieste irrealistiche per il cosiddetto Italian Sounding. Cioè noi nei negoziati chiediamo che addirittura certe aziende americane che fanno dei prodotti che suonano come dei prodotti italiani, ma non lo sono, magari fatti da una famiglia italiana, devono chiudere. Ecco, questo sarebbe francamente eccessivo. Ma questi ostacoli che vengono dall'Italia, dalla Francia, cioè ciascuno ha il suo campanile, portano inevitabilmente a ritardi sul negoziato TTIP. Ecco, io credo bisogna invece guardare oltre. Secondo, vi dicevo, Barack Obama, non soltanto ha mantenuto una promessa, ha fatto storia con la sua amministrazione, però questa sua azione mantiene un'altra promessa, che era quella di spostare il baricentro degli interessi americani dall'Atlantico al Pacifico. Ecco, in questa situazione il baricentro è spostato, perché loro adesso hanno un mercato aperto e noi no. Anche per questa ragione, il TTIP diventa un passo in avanti indispensabile proprio per un interesse strategico europeo. Terzo punto, la Cina. Ve l'ho anticipato, la Cina a questo punto sarà sotto pressione per fare un passo in avanti. I very much regard the Addis Conference as one step in that journey, which includes three steps. Ecco, siamo in odore di Fondo Monetario Internazionale. Christine Lagarde, direttore del fondo, un sospiro di sollievo per lei, perché come vi dicevo, questo accordo sul Pacifico, attenua le pressioni negative sul fronte cinese, dà prospettive di crescita e dunque ha espresso commenti molto molto positivi e favorevoli. Lo stesso il segretario al tesoro Jack Lew, segretario al tesoro americano, anche lui entusiasta. Attenzione, perché i commenti non sono solo celebrativi, ma giocano d'anticipo su inevitabili attacchi. Sono sicuro che io stesso riceverò una gran quantità di Twitter, di email dicendo: ma come, questo accordo non dobbiamo farlo in Europa, sarebbe un disastro, finiremo per importare prodotti modificati geneticamente, così via. Ecco, il problema qua è di andare avanti, non di andare indietro. Anche in America ci sono state resistenze, gruppi industriali importanti come la Ford per esempio hanno protestato, ci sono state una gran quantità di reazioni negative da parte dei sindacati, da parte di gruppi di lavoratori, da parte di settori industriali. Però alla fine l'accordo di ieri, come vi dicevo, creerà dei problemi in certi settori per certi lavoratori, ma nell'insieme occupazione ed economia ne usciranno rafforzati. È lo stesso che del resto è già successo con l'accordo NAFTA. Avremo resistenze e proteste naturalmente anche in Europa, me le aspetto, ce ne sono già. Occorre ascoltare, occorre rassicurare, ma poi occorre gonfiare le vele e correre, perché i nostri due grandi partner globali, Asia e Nord America, il giro di boa lo hanno già fatto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Restiamo sui soldi, fondo monetario, accordi commerciali. Ieri vi ho fatto una canzone su Money, oggi Cyndi Lauper, Money Changes Everything. I soldi cambiano tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!